Laura Ingalls. Capita nella storia delle donne che vi siano straordinarie collaborazioni tra madre e figlia, come tra Emmeline Pankhurst e sua figlia Christabel, che insieme combatterono per portare le donne al voto, o come Marie Curie e sua figlia Irene, entrambe scienziate Nobel per la chimica, che collaborarono in laboratorio e durante la guerra nell'unità mobile di pronto soccorso al fronte, creata da Marie. O come Laura Ingalls e sua figlia Rose, che a quattro mani scrissero una delle serie più amate, lette e tradotte di tutti i tempi, La piccola casa nella prateria. Otto libri, il cui successo si affianca a quello di altre grandi saghe di donne scritte da donne, come il ciclo di Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery o quello delle piccole donne di Louisa May Alcott. Nelle avventure della piccola pioniera Laura Ingalls si incarnò il mito del West. Negli anni la saga della famiglia Ingalls ha venduto 60 milioni di copie in 45 lingue, ispirando una serie TV in onda senza interruzione per 10 anni, biografie e libri di cucina, oggetti vari ispirati alla vita di frontiera e un anime giapponese come per tutte le altre piccole eroine letterarie. Ma nel riscrivere ormai settantenne le sue memorie, guidata dalla figlia Rose, Laura nascose nella gioia e nell'ottimismo la parte brutta, l'infanzia di estrema povertà e di duro lavoro, i continui pericoli della vita di frontiera. A noi ha offerto solamente la parte positiva dei suoi ricordi, come molte altre autrici di storie, tra virgolette, di fanciulle. Laura Ingalls e sua figlia sono state accusate di aver addomesticato i ricordi per creare un'immagine del West positiva e romantica in linea con la politica dell'American Dream. Noi crediamo che in realtà sia istintivo per alcune autrici il mettere in risalto la parte positiva delle storie, intuendo o pensando che ricordare il dolore porti altro dolore, mentre lo scopo è offrire gioia a chi legge. Probabilmente tutte coloro che ascolteranno i seguenti capitoli hanno visto la serie televisiva nella loro infanzia o già adulte accanto alle loro bambine. Quindi non ci soffermeremo sulla storia letteraria, ma indagheremo un po' la vera storia di Laura Ingalls e della sua famiglia. La vera Laura nacque nella seconda metà dell'Ottocento in una famiglia di pionieri e dal carro vide davvero le immense praterie, mentre con i genitori e le sorelline Mary e Carrie viaggiava dal Wisconsin al Missouri per trovare un posto dove fermarsi. Visse sulla sua pelle le tempeste, i tornadi e i terribili incendi nella prateria che in un baleno si propagavano e distruggevano case e raccolti. Ma nei romanzi ha raccontato questi eventi come fossero state avventure e non calamità che gettavano la sua famiglia in uno stato di rovina da cui ogni volta doveva faticare a uscire. A 18 anni sposò Almanzo Wilder e un anno più tardi nacque la figlia Rose. La piccola famiglia conduceva una vita durissima e attraversò una serie di disastri da cui usciva lavorando fino allo sfinimento. Laura si occupava della casa e delle persone che prendeva a pensione, dell'orto e del pollaio e a un certo punto, per arrotondare il magrissimo bilancio, cominciò a tenere una rubrica su un periodico rurale dal titolo Cosa pensa una donna della fattoria, in cui scriveva la sua opinione sui lavori domestici e sull'agricoltura, sul matrimonio, ma anche sul voto alle donne o sulla loro emancipazione. È così che scoprì la vena artistica che 40 anni più tardi, ormai anziana ma ancora piena di energia, la portò a scrivere le sue memorie. Quando la Grande Depressione distrusse i suoi risparmi insieme a quelli di altri milioni di americani, la figlia Rose, che nel frattempo era cresciuta, aveva lasciato la casa e grazie alla sua intelligenza e intraprendenza era divenuta una delle scrittrici di biografie più pagate dell'epoca, vide nella madre la stoffa dell'eroina americana. Una donna che attraversa mille tempeste e rimane in piedi. Un simbolo. Così Rose ebbe l'idea di offrire al pubblico le storie di pionieri e vita selvaggia tratte dai ricordi della madre e la incitò a scriverli, facendo di lei una delle autrici più amate di tutti i tempi. Laura si mise al lavoro, scavando nella memoria e facendo rivivere la prateria della sua infanzia, con la casa, mamma e papà, i giochi con l'amata sorella Mary, il cane Jack, i pancake della prima colazione e le frittelle di mais che sfrigolavano sulla padella unta di lardo sul fuoco a legna, il bucato steso ad asciugare sull'erba e gli indiani che non erano poi così cattivi. La figlia Rose, con la sua esperienza professionale, via via revisionava e aggiustava il tutto. Insieme, le due donne crearono una sorta di azienda di famiglia, la produzione degli 8 romanzi del ciclo La casa nella prateria. Tuttavia, le romantiche storie della famiglia Ingalls non raccontano il terribile contesto storico, la corsa alla terra innescata dagli Homestead Acts, la legge con cui il governo assegnava 65 ettari di proprietà demaniale a chi dimostrava in 5 anni di riuscire a coltivarle e a mantenerci la famiglia, i massacri dei nativi americani e il furto delle loro terre. Solo un accenno di solidarietà quando Laura chiede alla mamma perché andiamo ad abitare nella loro terra? La desolante povertà delle famiglie dei pionieri, il disastro ambientale provocato dallo sfruttamento agricolo intensivo, raccolti falliti e siccità e la continua migrazione verso ovest delle famiglie che si indebitavano e dovevano poi abbandonare la loro terra alle banche. Come ben racconta Rosa Luxemburg nel suo L'accumulazione del capitale, che potete ascoltare sul nostro canale al link qua sotto in descrizione. Laura, tutto questo non lo scrive, ci offre i suoi ricordi in chiave ottimista, rende la fattoria dei suoi genitori un vero modello di autosufficienza, rinnovando così l'orgoglio americano del duro lavoro e del farsi da sé, ratificato dal fatto che lei stessa ascende dalla miseria alla fama e conseguente ricchezza. Non mancò chi si rese conto che le storie dei pionieri scritte dalle due donne giocavano uno strategico ruolo di supporto alla politica conservatrice che si opponeva all'interventismo statale di Roosevelt, oltre ad aiutare a non perdere la speranza chi aveva perso tutti i risparmi nel famoso Venerdì Nero. Le storie della piccola casa nella prateria sono state ampiamente sfruttate da chi le ha strumentalizzate per fare propaganda politica. A noi però resta la dolce lettura delle storie delle sorelline che andavano a scuola camminando nell'erba alta, della mamma che le aiutava a infilare la camicia da notte e del papà che di sera, dopo una giornata di duro lavoro, sedeva accanto al fuoco a suonare il violino. Laura lasciò il corpo a 90 anni, ricca e amata da tutta l'America dei bianchi. La scuola delle donne è lieta di offrire di seguito alcuni degli 8 romanzi del ciclo La casa nella prateria. Da Devana, buon ascolto.